Sai su Radio Wombat, e questa è Radio Wombat 8 Hertz. E buonasera amici di Radio Wombat e di 8 Hertz. Stasera puntatona di quelle strane, di quelle con i live in mezzo. È un po' come la scorsa settimana, ma a questo giro il live è direttamente qui nella radio, nello studio. E abbiamo un ospite illustre per quanto riguarda la sperimentazione, italiano, si chiama Vittorio Nistri, aka Dead Burger Factory. Ha fatto un sacco di dischi. Ora io sono poco informato perché è stata veramente una sorpresa, proprio quasi dell'ultimo minuto, per cui non posso fare una presentazione dignitosa a lui, però so che mi ha portato qua un bellissimo CD, che è un cofanetto anzi, con 3 CD dentro e un libretto che sembra proprio un libro vero e proprio. Si chiama La fisica delle nuvole. È prodotto da Snowdonia Dischi e Goodfellas, quindi insomma anche che roba prestigiosa. E stasera proverà a fare qualcosa di bello sicuramente, insieme a Filippo Panichio, FP, che l'avete già sentito varie volte qui alla trasmissione, anche proprio come fautore di alcune puntate, quelle sulla sperimentazione seria, diciamo, c'è sempre stato lo zampino suo e proprio sempre stato anche ospite in regia. Da tanto che non veniva e stasera finalmente godrà del fare musica proprio insieme appunto a Vittorio Nistri, che mi diceva che è un po' per la composizione istintiva, ovvero in questo caso come stasera non si tratta solamente di improvvisazione, ma un'improvvisazione che però cerca di acchiappare al volo un po' una sorta di composizione vera e propria durante l'improvvisazione stessa. Lui mi diceva una cosa buffa, che praticamente così non accontento nessuno, perché chi è per la sperimentazione vera e propria dice no, è troppo, tra virgolette, pop, troppo orecchiabile. Chi è per le cose troppo orecchiabili per una comunque per una composizione reale dice no, ma è troppo poco compositiva. Quindi è un po' un gioco a perdere, e a noi giochi a perdere ci piacciono, e ringraziamo tantissimo loro due per essere venuti qua stasera. Questo che ascoltate è un live in diretta su Radio Wombat. Intanto vi ricordo che esiste la M, che è 1359, quindi va a sapere se c'è qualcuno che se l'ascolta in macchina o in radio, non so quali frequenze ascolterà, ma sarà abituato con 8 Hz che cambiano totalmente rispetto ai pezzi, che di solito sono molto contorti, hanno un range di frequenze molto vasto. E comunque andate su wombatonvlogs.org se invece state ascoltando per caso solo la radio, che c'è tutta la programmazione, c'è il nuovissimo palinsesto, tra poco partirà anche una serie di puntate che hanno a che fare con l'hip hop, quindi quelli che ascoltavano Mortal Wombat finalmente possono goderne, mi pare si chiami Sezioni Notturne, Sessioni Notturne, scusate. E comunque potrete trovare di ogni trasmissione sul sito il giorno della diretta, i giorni della replica e basta, anzi, e poi tutto va in podcast, per cui sul sito potete riascoltarvi e scaricarvi gratis tutte le trasmissioni. Penso sia l'ora di partire, e quindi ecco, loro sono Filippo Panichi e Vittorio Nistri, che è anche conosciuto come Dead Burger Factory. Buon ascolto. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. E avete sentito un clamoroso live qui alla radio di Vittorio Nistri, conosciuto anche come Dead Burger Factory e Filippo Panichi o FP, qui a Radio Wombat. E questa musica e questa sperimentazione le potete sentire solo su Radio Wombat nel programma 8 Hertz, che è quello che state ascoltando stasera. E l'unica radio toscana, almeno autofinanziata, autocostruita, autotutto, Speriamo sempre in una crescita di ascoltatori. Scriveteci a postawombat@insiberia.org se per non so, critiche o proposte, scusate, postawombat@insiberia.net, ecco. Seguiteci anche su Facebook e Twitter, ma anche se li usiamo poco perché siamo antisociali, antisociali di massa, diciamo. E vi ringrazio tanto, spero vi sia piaciuto. Grazie ancora a loro due che sono venuti stasera, a Vittorio Nistri e Filippo Panichi, per questo live altamente gradito. Noi ci sentiamo la prossima settimana per qualche altro delirio. Buonanotte, viva Radio Wombat, viva 8 Hertz.